Mamma mia, prega perché il mondo va più veloce di me. Alzo stereo a palla per non pensare. Alzo così tanto da farmi male, dimenticando tutto quello che so, tutto quello che so. Rotolo e rimbalzo tra l'inferno e il cielo, tra demoni privati e santi extra vangelo, perdendo terreno, ma il fiato è quello che è. Prega un poco per me. Partecipo al gioco e non so bleffare, che vinca o che perda io voglio provare. Mamma mia, prega perché il mondo va più veloce di me. Contro sterzo sbando e vado di fuori, cercando di seguire piloti migliori. Ma è un po' ricucire uno strappo e non so se mi va. No, non so se mi va. Per ogni partita è un gioco da fare, che vinca o che perda io voglio provare. Mamma mia, prega perché il mondo va più veloce di me. Mamma mia,